Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Terminato davvero pochi istanti fa, come sentivamo a Bruxelles, il Consiglio europeo riunito a 27. Il tema Brexit ha di fatto stravolto l'agenda. Le conclusioni, attese ormai tra pochissimo, stanno cominciando le prime conferenze stampa. A parlare in questi minuti la cancelliera tedesca Angela Merkel. Nuovo appuntamento però già fissato per settembre. Allora, intanto sentiamo Sergio Nava. E allora è finito pochi minuti fa il primo vertice europeo 27, lo hai detto Anna, l'Unione oggi ha fatto la storia con il primo summit informale senza un paese membro, causa esclusione. Le bozze di conclusioni finora circolate non fanno molta luce sui mesi di incertezza che si preparano dopo il ripetuto no di David Cameron a far scattare l'articolo 50 di divorzio prima dell'autunno. Sentiamo però cosa sta dicendo Angela Merkel. La capacità d'azione dell'Unione. Nonché tutte le misure da implementare in ambito della Commissione per i giovani. Ovviamente noi cercheremo di migliorare la capacità di discussione. Ovviamente non verranno cambiate le regole del gioco, ma ovviamente si utilizzerà la nostra agenda strategica secondo la procedura che è sempre seguita in passato. Ovviamente vogliamo rendere la nostra Unione meno burocratica. E quindi sì, la Merkel sta nei fatti riassumendo alcune delle conclusioni che sono appunto state varate oggi dai 27, perché c'è nel testo la necessità di fare di più per rispondere alle attese dei cittadini per la sicurezza, la prosperità e le prospettive di un futuro migliore. Dobbiamo agire non ultimo nell'interesse dei giovani, affermano i 27. Il resto sono appelli a fare presto per organizzare il ritiro ordinato della Gran Bretagna. Parliamo sempre di bozza di conclusioni. Spetta al governo britannico, appena sarà pronto a farlo, notificare al Consiglio europeo la volontà di attivare l'articolo 50. Sarebbe preferibile che questo avvenisse rapidamente allo scopo di evitare di entrare in un prolungato periodo di incertezza. Infine, non ci potrà essere alcun negoziato dell'Unione Europea con Londra prima che abbia avuto luogo la notifica dell'articolo 50. Importante anche dire che secondo le bozze e conclusioni ogni intesa futura siglata con Londra dall'Unione Europea come paese terzo, quindi la Gran Bretagna, dovrà essere bilanciata in quanto a obblighi e diritti. Come dicevi poi Anna, a settembre la conferma del vertice informale a Bratislava per fare il punto su dove andare ora in un'Europa senza più la Gran Bretagna. È tutto. E grazie a Sergio Nava. Naturalmente ci torneremo, in gran parte congelati dalla vicenda Brexit, la maggior parte dei dossier sul tavolo dell'Europa in questi giorni, ma oggi c'è stato intanto un nuovo capitolo nella contestata vicenda anche del glifosato, il pesticida più utilizzato al mondo. Il Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare ha confermato che verrà estesa l'autorizzazione dell'Unione europea, un obbligo giuridico, ha spiegato al Consiglio dei Ministri dell'agricoltura a Lussemburgo. Dobbiamo rispettare la scadenza del 30 giugno. I partner, e infatti nonostante due successive riunioni, non sono ancora riusciti a pronunciarsi in favore o contro sul dossier. E lontana anche dalla soluzione in Europa la vicenda Volkswagen. Negli Stati Uniti Volkswagen mette la parola fine allo scandalo Dieselgate grazie ad un accordo con il governo da 15 miliardi di dollari. In Europa invece rimangono a bocca asciutta i proprietari degli 8 milioni e mezzo di veicoli non conformi alle normative comunitarie. I lavori della commissione d'inchiesta creata dall'Europarlamento per indagare sullo scandalo Dieselgate si sono arenati a causa della scarsa collaborazione degli Stati membri. Finora solo Gran Bretagna e Germania hanno consegnato i rapporti chiesti dalla commissione. I consumatori europei pagano lo scotto di non poter ricorrere ad una class action e di una normativa comunitaria sulle emissioni più vaga rispetto a quella statunitense, che rende più difficile definire illegale il software usato da Volkswagen. Secondo il commissario UE all'industria e al mercato Svieta Biancoska, la casa automobilistica tedesca dovrebbe pagare una compensazione volontaria ai proprietari europei perché sapeva che i valori delle emissioni non corrispondevano a quanto dichiarato. I 15 miliardi di dollari che Volkswagen dovrà pagare negli Stati Uniti saranno coperti in larga parte con i fondi che il gruppo automobilistico ha accantonato all'indomani dello scandalo, ma la generosità di Volkswagen è dovuta anche al fatto che in Europa, per ora, nessuno sembra intenzionato a metterla con le spalle al muro. Giuseppe Luongo, Radio 24, e sulle 24 ore. E ancora un saluto da Anna Migliorati. Ci fermiamo qui per ora. Vi ricordo l'appuntamento con l'Europa questa sera, effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.